Radio 24 Reportage. La capitale del diavolo di Marta Cagnola. Benvenuti al Centro Sportivo di Milanello, qui si allena la prima squadra e la squadra primavera del Milano. È una splendida giornata di sole, siamo in campagna, siamo dalle parti di Varese e siamo in un luogo segretissimo dove vengono costruiti i successi di una squadra di calcio. Siamo a Milanello, ci accompagna a visitarlo il direttore vendite del Milan, Mauro Tavola. Questo centro è nato nel 1962 sotto la presidenza Rizzoli, perciò ha quasi 50 anni di vita e chiaramente è stato abbellito, ammodernato chiaramente nel corso degli anni. Ci sono, è un'estensione di 17 ettari, 170.000 metri quadri, un terreno di proprietà del Milan, circondato da un terreno di proprietà sempre del gruppo Fininvest di quasi 500.000 metri quadri, 50 ettari. È composto da una zona adibita a accoglienza e sistemazione dei giocatori, perché qui vivono i giocatori durante il ritiro, perciò la clubhouse è su tre piani, al secondo piano ci sono le camere dei giocatori, nel centro ci sono sei campi regolari da calcio, tre all'esterno di quel muro e tre all'interno. Allora, noi siamo qui con i ragazzi che hanno vinto un concorso indetto dallo sponsor che ha permesso ai tifosi di entrare, di allenarsi con il Milan. Ma non è possibile solitamente entrare a Milanello, non è possibile sbirciare gli allenamenti della squadra. Qui è vietato a tutti entrare, cioè c'entra solo per gli addetti ai lavori, perciò i campi all'esterno del muro si usano soprattutto durante il ritiro estivo, perché ci sono tantissime persone fuori a vedere la squadra. Qui i giocatori fanno gli allenamenti ma fanno anche la parte ritiro estivo e ritiro prepartita, cioè abitano qua, vivono nelle loro camere il giorno prima della partita se la partita è fatta in casa. Qui a Milanello, nel villaggio degli allenamenti, le voci non sembrano penetrare e non turbano il quotidiano lavoro dei giocatori. E sotto lo sguardo attento di Lido Holm lo dimostra l'impegno del cannoniere Atley. Siamo l'unica squadra che fa il ritiro estivo nel proprio centro sportivo, evitando di prendere tanti soldi da regioni che ci invitano per fare la sessione estiva di allenamento da loro. Abbiamo una parte medica, abbiamo Milan Lab, abbiamo una cucina che dedica determinati piatti, c'è una alimentazione particolare, perciò è tutto assolutamente controllato. E in questa tensostruttura cosa succede? Entriamo. Dove sono usciti i giocatori, l'avete visto? Ci sono chiaramente i spogliatoi di prima squadra, la parte di palestra, tecnogym e tutta una parte dedicata alla fisioterapia, alla riabilitazione con delle speciali strutture. Okay. Sotto agli spogliatoi esiste il cuore di Milan Lab. Milan Lab è una struttura molto particolare, in esclusiva al Milan Calcio. Sotto appunto il cuore di Milan Lab ci sono delle aree destinate ai test che facciamo ai giocatori e delle aree particolari che noi la chiamiamo una mind room, cioè proprio un'analisi anche della testa. Tutto il centro è attrezzato per osservare l'allenamento, la normale vita dei giocatori. Cioè tutti i giocatori sono completamente osservati. Come vengono osservati? Beh, semplicemente possono essere osservati con del materiale tecnico. Questa è un'area di test che fanno regolarmente ogni 15 giorni. Tutto viene calcolato, elaborato e viene immagazzinato, viene anche osservata l'alimentazione, vengono determinate le allergie, ogni tot tempo viene anche vista un determinato tipo di postura, perciò viene un po' tutto, l'atleta viene studiato in modo che l'allenatore e la società abbia una storia di vita del giocatore. Adesso andiamo a vedere anche una cosa curiosissima che è la gabbia. La gabbia qua a fianco è un campo normalmente usato da Sacchi ai tempi di allenamenti speciali. Sacchi si metteva sulla scaletta col megafono e diceva a tutti correte, correte, correte. È un campo chiuso da quattro mura con porte regolari, si giocava 5 contro 5, 5 minuti scoppiavano veramente le persone. Ma dopo Sacchi non è più stato usato? Era lui che li massacrava così? Lui li massacrava tante, sì, con me molto meno gli altri. Ce l'hanno usato qualche volta, Ancelotti l'ho visto usare, Capello usare, Leonardo non l'ho quasi mai visto usare, per esempio. Sa che era un po' maniaco anche del lavoro. E qui a Milanello troviamo ovviamente ovviamente i grandi campioni del Milan. Il gol a un minuto dalla fine, colpo di testa di Massaro e palla in rete e il gol partita. La palla per Savicevic, Savicevic si allunga il pallone, tira, Massaro, gol del Milan con Massaro! Donadoni in penetrazione, fuori Massaro, gol del Milan, strepitosa azione e gol di Massaro, ancora lui. Daniele Massaro, qual è la magia di Milanello? Ma devo dire che è una delle più grandi emozioni della mia vita, quando poi alla fine, quando sei ragazzino, hai dei sogni nel cassetto, era quello di vestire la maglia del Milan, e puoi immaginare quando sono entrato per la prima volta qui a Milanello. Ovviamente è cambiato molto dal 1986, però il fascino rimane sempre quello. Un posto, un'oasi dove si lavora duro, ma dove si preparano sicuramente delle emozioni per tutti i tifosi milanisti. Qual è il segreto di Milanello? Perché poi io così girando ho scoperto che c'è tanta tecnologia, tanto studio, ma davvero questo è importante o cosa serve per costruire dei campioni? C'è un lungo lavoro, un lungo discorso. Sicuramente la scelta di uomini, non solo atleti, e avere la disponibilità appunto dei giocatori, degli atleti per seguire questo progetto che io ho avuto la fortuna di fare negli anni forse più belli della mia carriera, più belli del Milan, da quando il presidente Berlusconi ha preso questa squadra. Come dicevo, è cambiato molto, al di là della tecnologia, della medicina, però niente, è un piacere venire qui ogni giorno, lavorare, sudare. A me, al di là che ho smesso parecchi anni fa, la cosa che mi manca di più appunto è quella di venire qui a Milanello e sentire dentro lo spogliatoio, a parte l'affetto di tutti i compagni del gruppo, ma proprio sentire la maglia, il sudore finito ogni allenamento. E poi sdraiarti sul lettino e farti massaggiare e recuperare dal lavoro che hai fatto poco prima, mi manca moltissimo. A Milanello, quartiere generale del Milan, l'assessore allo sport Crespi, che si dice sia tifoso interista, e Rino Fabbri hanno consegnato ai campioni del mondo, primo fra tutti il capitano Rivera, le medaglie d'oro ufficiali emesse in occasione della grande vittoria rossonera nella Coppa Intercontinentale. La semplice cerimonia vuole essere un riconoscimento ai calciatori che hanno portato alto il nome d'Italia nel mondo, dando esempio di cavalleria e sportività nella furiosa partita della Bombonera a Buenos Aires. Quante persone lavorano a Milanello? Allora, noi abbiamo quasi tutte strutture outsourcing, cioè non è una struttura di persone di proprietà. Del Milan sono una decina circa. Chiaramente la parte tecnica è tutto il Milan, con dei contratti di lavoro diversi, chiaramente, sì. Perciò ci sono fisioterapisti, ci sono preparatori, ci sono magazzinieri, ci sono allenatori e c'è chiaramente i giocatori. Il gruppo è all'incirca una sessantina di persone che lavorano sul campo per la squadra. Andiamo a vedere l'allenamento. Pipparo! Pippo! Ciolla! Dai, Io! Danilo, dovete fare dei gol che valgono i punti, anche i gol, Vittoria 3 punti, ogni gol 1 punto. Ciao Flavio! E chiudiamo la nostra scoperta di Milanello con una delle bandiere del Milan, Franco Baresi. Tassotti, il retropassaggio, arriva Colombo, palla un po' sporca, Baresi, gol! E va in gol Baresi! Ma davvero esiste una magia di Milanello? Milanello è famoso in tutto il mondo, credo che sia uno dei centri più attrezzati, più belli per chi deve fare calcio. Credo che è un centro bellissimo, perché è anche tenuto molto bene, anche sul piano proprio estetico. Chi viene a Milanello per la prima volta rimane sempre affascinato appunto per tutto quanto quello che può trovare qui. Vero, io ho avuto l'impressione di un ambiente molto sano. Sì, siamo anche fuori dai rumori, siamo proprio in mezzo al bosco e quindi è proprio un'atmosfera, si sente l'odore dell'erba, si sente, quindi credo che sia bello, insomma, che si respira un'aria buona. La prima volta che sei arrivato tu a Milanello? Non mi ricordo. bisogna andare nel lontano 74. Questi campi non c'erano ancora, erano fatti nuovi, prima c'era solamente i campi all'interno, adesso l'hanno allargato, hanno fatto altri tre campi. E mi ricordo l'emozione come credo che possano provare questi ragazzi oggi, entrare dal cancello per la prima volta a vedere poi i grandi campioni di allora, che per me erano i miei idoli. Quindi c'erano gli Albertosi, i Rivera, i Bigon, quindi tanti campioni che non pensavo mai di poter vedere né giocarci insieme, che poi credo che Milanello sia stato un punto di riferimento importante per tutti quelli che hanno giocato nel Milan, che hanno vinto con il Milan. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.